4 mattino. Le 8, 19 minuti e 30 secondi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di martedì 17 novembre, al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 avremo ospite la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, con la quale parleremo tanto dell'incontro del governo di ieri e quindi più in generale della manovra, quanto della questione degli statali e dei dipendenti pubblici. Come sapete, il governo ha deciso di stanziare altri soldi per il rinnovo del contratto, ai sindacati non basta e hanno minacciato sciopero. E poi sarà nostro ospite il presidente facente funzioni della regione Calabria, Spirlì, per tutta questa commedia sul commissario alla sanità calabrese. È il momento, come sempre, di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci. Buongiorno Paolo. Eccoci, guarda, saltiamo a pie pari, come abbiamo fatto ieri, i dati sul virus, perché, lo dico con protesta, il sabato, la domenica e il lunedì sono dati così molto arronzati e quindi non meritano di essere commentati, se non per degli indici, insomma, ma quelle euforie del lunedì e martedì mattina sono euforie improprie, si comincia a ragionare sui dati dal martedì mattina, mentre invece oggi partirei da una cosa che è stranamente sottovalutata da tutti i giornali italiani, non da quelli del mondo, perché ho visto che apre il New York Times, apre Le Monde. E in Italia, tranne, mi sembra abbastanza bene, fatto da Repubblica, Federico Rampini, domenica è stato firmato un accordo un accordo commerciale che coinvolge 15 paesi, 2,2 miliardi di persone, un terzo del PIL del pianeta, e che ha come epicentro l'Asia. Siccome l'Asia è riuscita a liberarsi dal Covid, e ti faccio notare, nonostante anche loro dicano di avere un vaccino, con un combinato disposto fra vaccino e politiche per uscire dal Covid, cioè la speranza messianica del vaccino, io ho qualche timore che sia mal riposta. Ma comunque, tornando all'accordo, è un accordo importantissimo perché sposta, o potrebbe spostare, il baricentro economico, ma della globalizzazione, lo potrebbe spostare vistosamente, cioè noi ci potremmo risvegliare a fine pandemia che il mondo è cambiato. Se potessi dare un consiglio agli ascoltatori, gli direi: studiate il cinese, mi raccomando, studiatelo bene, parlatelo, o lingue asiatiche, perché lì va il mondo, ecco. E Paolo, è anche una grande sfida per il presidente eletto degli Stati Uniti, Biden, che non a caso nelle scorse ore ha detto proprio, rivolgendosi ai partner, all'Europa in particolare, ma non solo all'Europa: ok, mettiamoci insieme, perché dobbiamo mettere insieme una strategia per contrastare il potere cinese. Mi sembra chiaro. Certo, anche Biden si trova in una posizione scomoda, perché quando era vicepresidente di Obama era il più favorevole a un allargamento in questa direzione, ovviamente tenendo il posto di capotavola agli Stati Uniti. Adesso si trova a dover agire in coerenza con idee che ha sempre professato e che sui giornali americani già gli ripropongono, ma con a capotavola la Cina, che è il grande rivale però non facciamo adesso una dissertazione geopolitica. Vorrei solo che gli ascoltatori dessero attenzione a tutte le pagine dei giornali italiani, quando si deciderà, si sveglieranno, che si dedica a questo argomento, perché è un argomento importante, così come è importante, avete visto, che i paesi più autoritari d'Europa, chiamiamoli così, i sovranisti, non mi piace questa parola, pongono ostacoli al Recovery Fund. Si capisce che si allontana questo Recovery Fund, anche perché, come osserva giustamente Fubini sul Corriere della Sera, questi paesi, Ungheria e Polonia, hanno un ruolo, ma dietro agiscono i paesi cosiddetti frugali, che non hanno alcuna intenzione, nonostante allora a fine primavera avessero deciso di dare l'ok, ma adesso anche loro hanno messo il freno a mano. Tra l'altro in Olanda ci sono le elezioni il 17 marzo, quindi prima del 17 marzo, prima di fine marzo, non si comincia neppure. Questa è una notizia molto grave. Sassoli, come abbiamo detto ieri, ha proposto l'azzeramento dei debiti fatti per la pandemia, sì. Gli sono arrivate piogge, come avrei visto, la BCE, tutti gli dicono sei pazzo, gli stai dicendo, sì. Insomma. Sì, sì, non sono buone notizie. Esatto, e non è un elemento valido da portare sul tavolo della trattativa con i frugali. Per fortuna c'è Santa Angela Merkel e vedremo se riuscirà a cavarne qualcosa da tutta questa trattativa. E poi per fortuna c'è il vaccino, appunto, questo nuovo vaccino. Adesso c'è il vaccino, sei troppo ottimista. Il secondo. Sei troppo ottimista. No, tu sei ottimista, io guarda, ti ho già detto. Sai quando è che mi sono preoccupato? Quando ho visto che l'amministratore delegato della società che produceva il precedente vaccino, il giorno dopo l'annuncio è andato in borsa e ha venduto per 5,6 milioni di azioni. Ora, una strana operazione di borsa, perché uno che investe tutto su un'iniziativa così importante per la storia, che il giorno dopo si libera, lui l'ha detto che l'ha fatto perché gli servivano soldi per andare avanti nella ricerca. Però, siccome questo nuovo vaccino va tenuto a temperature meno rigide del precedente ed ha un grado di sicurezza maggiore, è come l'idea, quello ha fatto il primo annuncio, è come di un'operazione mosconata in borsa, insomma, ha fatto il primo annuncio, si è venduto le azioni, adesso andrà alle Seychelles. Cioè, non è questa la procedura corretta. Quando si corre troppo si rischia di incappare in strani personaggi, che Dio ce la mandi buona. Sì, il prossimo vaccino si potrà tenere direttamente in dispensa accanto al riso e alla pasta. No, questo attuale si può tenere in frigorifero, è il prossimo che si può tenere in dispensa. E comunque beato Albert Bourla, così si chiama l'amministratore delegato della precedente società, che si è beccato 5,6 milioni, se la spassa. Non male, della Pfizer. Caro Paolo, sul fronte Covid, c'è tutta la vicenda calabrese. Come rinunciare a questa straordinaria vicenda calabrese, allora, che ogni giorno si arricchisce di qualcosa di nuovo? Ti dico le due cose che mi hanno colpito di più. Primo, che Zuccatelli ieri finalmente si è dimesso, si è dimesso in una maniera strana, perché la mattina ha annunciato alla televisione calabrese che non si sarebbe dimesso, poi il pomeriggio ha tenuto a sottolineare: il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni, mi ha chiesto di dimettermi e io l'ho fatto. Cioè, questa sottolineatura che gliel'ha chiesto il ministro è una sottolineatura terzo internazionalista, cioè da uomo di partito. Uno può dire: per la mia sensibilità ho scelto di... Poi sottolinea che il ministro gliel'ha chiesto tardi, 10 giorni dopo, cioè lui si è accorto, il ministro ci ha messo 10 giorni, tu l'hai scoperto molto prima, devo dire. La prossima volta farai il ministro della sanità, perché... E poi, insomma, comunque meno male che Speranza se n'è accorto, gliel'ha detto, e insomma poteva dire che lui lo faceva per sensibilità. Poi... È come voler avanzare un credito, sia chiaro, ma l'hai chiesto tu, insomma, tienine conto che l'ho fatto solo per te, mio capo. Oh Paolo, nella straordinaria commedia calabrese arrivano nuovi personaggi, nella fattispecie l'ex rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, no? il quale improvvisamente si dice, allora sarà Eugenio Gaudio che è cosentino, è un medico, è cosentino, quindi è calabrese, eccetera, eccetera, dopodiché nell'arco della giornata si scopre che è indagato. Non è male. Ecco, è indagato, si scopre che è indagato, ma lui può dire: ma io non lo sapevo. No, perché lo scorso 23 luglio la Procura di Catania gli ha notificato, insieme a altre 53 persone, l'avviso di chiusura delle indagini. Lui si è fatto interrogare. Ora dico, è un signore, è stato rettore dell'università, ma non poteva dire al ministro: cioè, guarda, sono indagato, è molto probabile che chiudano le indagini, che mi assolvano subito, lo faranno magari in mattinata, perché la giustizia in questi casi è molto veloce. Si mette in moto molto veloce, anche se c'è tutta una storia pasticciata, perché lui è indagato per aver favorito, cosa che io escludo che abbia fatto, Maria d'Agata, che è la figlia di un PM di Catania, cioè dell'ex procuratore di Catania, dell'ex procuratore di Catania. Sì. Chi indaga? Esatto. Chi indaga su questa storia? La procura di Catania. Vabbè, la procura di Catania. Insomma, ecco, appunto, non è una cosa di quelle che passano inosservate. Se l'avesse detto prima, cioè, io lo dico al ministro Speranza, se lui si deve rivolgere al presidente, gli deve dire: ma avete dei cadaveri nell'armadio di qualsiasi tipo? E dirgli lui, dice: guardate che nomino Zuccatelli, ma Zuccatelli purtroppo fece un'intervista televisiva, gli rubarono una cosa televisiva, oppure nomino Gaudio, ma purtroppo a Catania, però vedete che si carirà subito. Sarebbe diverso che farsi beccare lì con le mani nella marmellata. Tre di seguito poi mi sembrano veramente troppo. È stata veramente una debacle. Con Gino Strada, che ieri ha detto, tra l'altro, che come ha dato la stessa risposta che ha dato l'altro ieri, cioè ha detto: leggo di un tandem tra me e Gaudio, ma nessuno mi ha detto nulla, cioè non gli è arrivata né un'email né niente, tutto fermo all'interlocuzione, alla telefonata con Conte dell'altro giorno. Vedremo che cosa succederà. Incredibile. Nel frattempo, guarda, ti dico ancora, poi chiudiamo, che sì. Berlusconi torna trionfante come il Conte di Montecristo sulla scena politica. Abbiamo detto ieri di questa lettera al Corriere di Bettini che lo invitava a entrare in maggioranza, il Fatto festeggia, anche Di Maio dice: viva Berlusconi. La Lombardi dei 5 Stelle dice che è il leader più giovane del centrodestra. Lui pare che voglia chiedere, e lo ribadisce il governatore del Piemonte Cirio, la sospensione delle tasse per tutto il 2021. Ottima. Nel frattempo Conte sta pasticciando sugli 007, la parola la prendo da Repubblica, sì. E pare che il PD sia irritato, e i 5 Stelle dicono che al Quirinale non vogliono uno del PD, già si mettono, e vogliono una donna, sì. Secondo me c'è aria di Cartabia, a leggere Marta Cartabia. Abbiamo solamente 30 secondi, Paolo, a chiudere. Hai notato con quale, come possiamo chiamarla, pudicizia i giornali sobrietà trattano la vicenda dell'ex consigliere di Stato Bellomo, quello indagato per stalking, per aver costretto ad un dress code e forse anche secondo alcune ipotesi e prestazioni le sue borsiste, che è stato assolto per la seconda volta, visto? Sì, quanto tutti lo tengono un po' nascosto per la seconda volta. Eh sì, perché si vergogna dopo avergli pubblicato foto, intercettazioni, insomma tutti siamo un po' imbarazzati. La seconda soluzione, come tu hai sottolineato, la prima fu a Milano, la seconda a Piacenza. È stato assolto con lui anche l'ex PM di Rovigo, Davide Nalini. Il fatto non sussiste, però guarda, verrà riprocessato a Bari 3 dicembre, sì, perché sì, poi sì. Queste sono le cose della giustizia italiana, ti fanno una quarantina di processi. C'è solo un'eccezione, che è l'eccezione di Bassolino, che gliene hanno fatti 19, sì, come hai visto nei giorni scorsi, ed è uscito assolto, tant'è che oggi da tutte 19, sì, persino Marco Travaglio, te lo segnalo, sì, dice che ha ottimi motivi per lamentarsi. 19 vero. Indagini senza condanne sono troppe per non interrogarsi sui PM e i GUP che si sono occupati di lui. Beh, sono parole in bocca a Marco Travaglio importanti. Paolo, a domani, ciao. Ciao. Sono le 8:37 minuti e buongiorno ad Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Bentornata ai nostri microfoni, Furlan. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Partirei dal pubblico impiego. Ieri avete avuto un incontro col governo sulla manovra. Tra le cose che vi sono state illustrate sono i 400 milioni aggiuntivi che si vanno a sommare a 3,8 miliardi per il rinnovo contrattuale. Voi dite che non basta. Perché? Quanto ci vorrebbe? Noi abbiamo calcolato che come minimo ci vorrebbe qualcosa più di un miliardo per poter rinnovare il contratto, non in modo strepitoso, esattamente dando ai lavoratori e alle lavoratrici quello che gli è stato riconosciuto col contratto ormai scaduto. Il pubblico impiego è stato 8 anni senza rinnovare il contratto, tutta la pubblica amministrazione, dopodiché siamo riusciti a rinnovare l'ultimo contratto che è già scaduto da 2 anni. Il pubblico impiego è davanti a una trasformazione davvero importante. Quando parliamo di digitalizzazione intendiamo ovviamente che per realizzarla ci vogliono forti investimenti digitali dentro la pubblica amministrazione, ma anche percorsi di formazione, di aggiornamento per i lavoratori, per le lavoratrici, assunzioni di nuove figure che mancano nella pubblica amministrazione. E ovviamente attraverso la contrattazione che si guida, che si gestisce il cambiamento, perché il lavoro ne sia protagonista e la qualità dei servizi per i cittadini e le cittadine sia migliorata. Tutto questo manca senza il contratto. In più, me lo faccia dire, non possiamo definire tanti lavoratori, tante lavoratrici, penso in modo particolare a quelli della sanità, i nostri eroi, e poi non stanziare le risorse per rinnovarsi un contratto ormai trascaduto. Il governo è anche datore di lavoro in quanto Stato verso 3 milioni di lavoratori, e l'indifferenza verso il contratto non è ammissibile. Non lo permettiamo ai privati, figuriamoci allo Stato. Quel miliardo è un miliardo che si va a sommare ai 400 milioni già stanziati, o servono altri 600 milioni secondo voi, Furlan? Guardi, secondo me se si trovano gli altri 600 milioni ci sono le condizioni per sedersi a un tavolo e aprire la trattativa. Ha suscitato un po' di scandalo, anche un po' di rabbia, come potrà ben immaginare, soprattutto tra lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti del settore privato, l'idea che si possa minacciare lo sciopero in una situazione di questo genere, non lo sciopero in sé, per carità, del pubblico impiego, ma in una situazione di questo genere, nella quale, come sa, molti lavoratori autonomi sono in grave difficoltà, molte imprese sono in grave difficoltà, sono in difficoltà i lavoratori del settore privato, lei lo sa perché è la segretaria generale di un sindacato che ha ovviamente ampiamente anche rappresentanza nel settore privato. E cosa risponde a queste critiche? Intanto in tutti i settori, quando non riusciamo a rinnovare i contratti per evidenti chiusure delle controparti, uno degli strumenti che abbiamo ovviamente è anche quello dello sciopero. L'abbiamo fatto per il settore alimentare, l'abbiamo fatto per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, lo faremo laddove sarà necessario. Ovviamente questo quando c'è proprio chiusura rispetto alla trattativa, non si fa a cuor leggero, anche perché quel giorno il lavoratore scioperando non ha nella sua busta paga il riconoscimento del giorno di lavoro, quindi un sacrificio. Però guardi, mi lasci dire una cosa, Io non ho ancora trovato nessun lavoratore, nessun delegato del privato, di qualsiasi altro settore che non sia pubblico, che mi ha fatto questa osservazione, ma proprio per niente. C'è molta più solidarietà tra i lavoratori di quello che si può immaginare. Il problema sono osservazioni che non vengono dai lavoratori, vengono da studiosi, vengono da giuslavoristi, vengono da politici, non vengono mai dagli altri lavoratori. Beh, a giudicare, vale, guardi, se le posso dire, Furlan, se mi permette, Furlan, a giudicare dal polso dei nostri ascoltatori non è esattamente così, nel senso che c'è anche un pezzo di opinione pubblica che su questo dice, beh, in fondo i lavoratori del pubblico impiego viene convogliata rispetto allo spaccare l'unità dei lavoratori. Allora, guardi, noi abbiamo nel pubblico impiego una media stipendiale che è circa 1.100-1.200 euro. Il rinnovo del contratto significa per molte famiglie la possibilità di pagare regolarmente l'affitto. In più, quello che abbiamo visto davvero di straordinario di tanti lavoratori pubblici in tutto questo periodo della pandemia ci deve portare a valutare un po' diversamente il valore del lavoro di tante persone. Non è un momento in cui serve spaccare, è un momento in cui serve unire. Il contrasto è importante, è fondamentale per la vita di tante famiglie, ma è anche fondamentale per cambiarla questa pubblica amministrazione. Fuori dalla contrattazione non vedo proprio come si possa fare. In generale sulla manovra, Confindustria dice, lo ha fatto anche oggi in un'intervista il presidente di Confindustria, Bonomi, dice serviva più sostanza, più investimenti e meno sussidi. Qual è il giudizio del sindacato, o meglio del suo sindacato, sulla manovra che vi hanno presentato ieri? Anche noi abbiamo rilevato come la manovra non è una manovra che parla di crescita, di progetto paese. Infatti, accanto alla manovra dovemmo discutere il recovery fund, cioè come utilizziamo per la crescita, per il lavoro, per dare davvero un futuro a questo nostro paese le tante risorse europee che arriveranno. Parlo di transizione energetica, parlo di interventi green sul nostro modo di produrre, di tanta formazione, di aggiornamento per i lavoratori e le lavoratrici, di accompagnamento verso il lavoro. Una lacuna che abbiamo rilevato sono i fondi per le politiche attive per il lavoro. Le cifre che sono previste nella manovra sono assolutamente del tutto insufficienti. Noi avremo bisogno finalmente di un confronto un po' a tutto tondo, che parte dall'utilizzo del recovery fund, ma arriva anche a quegli altri riformatori di cui questo paese ha assolutamente bisogno, a partire dalle politiche attive del lavoro e a partire dagli ammortizzatori sociali. Sul fronte delle politiche attive, Furlan, c'è un problema, secondo lei, anche nel manico, anche in come funziona l'ANPAL, l'agenzia dedicata? Guardi, su come funziona tutto, perché di fatto politiche attive in questo paese se ne è sempre fatto poco, ultimamente se ne è fatto niente. Noi abbiamo bisogno che attraverso la formazione, questo vale per i giovani disoccupati, ma vale anche per tanti lavoratori e tante lavoratrici che non sono più propriamente giovani, abbiamo bisogno attraverso la formazione, l'aggiornamento, di accompagnare anche gli uomini e le donne del lavoro da un lavoro a un altro. Per questo servono investimenti, ma serve anche un dialogo molto diverso tra la scuola, il territorio e l'impresa, cosa di cui assolutamente si vede troppo poco, direi niente fino adesso nel nostro paese. Abbiamo aperto un confronto sulle politiche attive, spero che finalmente approdi a qualche risultato importante, perché noi siamo riusciti, e su questo fortunatamente abbiamo convinto il governo, a prorogare la cassa Covid, a prorogare i licenziamenti, però questi mesi devono essere dedicati a creare le condizioni diverse per la crescita e lo sviluppo, ma anche per una riforma forte di ammortizzatori sociali e politiche attive, per cui ad aprile di licenziamenti non ce ne siano. Sì, un'ultima domanda per la leader di un sindacato che ha una forte rappresentanza nella scuola come il suo. Le regioni che hanno chiuso e stanno chiudendo completamente le scuole, secondo lei sbagliano, Furlan? Guardi, il chiudere la scuola è un atto sempre molto doloroso, perché la scuola rappresenta il futuro dei nostri giovani, quindi è l'ultima cosa da chiudere. Ma per non chiudere la scuola dovevamo per tempo, cosa che purtroppo non si è fatto, creare le condizioni perché questo non avvenisse. Con interventi molto più forti di sicurezza sulla scuola, pensi che manca il medico scolastico, tanto per citare una cosa, abbiamo 250.000 precari, ma creare condizioni per il prima e per il dopo, e cioè quando i ragazzi vanno a scuola e quando i ragazzi escono da scuola, per creare sicurezza. Basta vedere la metropolitana o vedere l'affluenza sui nostri mezzi di trasporto per capire che purtroppo molto spesso i giovani le zone di contagio ce l'hanno prima di entrare a scuola, e a scuola purtroppo non ci sono quegli elementi di sicurezza, in modo particolare di tipo sanitario, che permettono di stare tranquilli. Grazie, Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro, una pausa. Mattino. Caro Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai tuoi radioascoltatori. Ma che caos questa vicenda. Allora, abbiamo Cotticelli e quell'intervista che tutti conosciamo, è passata via. E poi Zuccatelli e le dichiarazioni sulle mascherine. Vabbè. E numero tre arriviamo a Gaudio Persona, lei ha detto rispettabilissima, e che però scopriamo che è indagato per una vicenda che ha a che fare con il passaggio a professore ordinario di una della figlia di un ex procuratore. Non essendo io un giustizialista, su quello aspettiamo che si pronuncino le autorità competenti, ma devo dire, rettore dell'Università La Sapienza e peraltro con una carriera medica alle spalle eccellente, io prendo per buono quello che il governo garantisce e soprattutto prendo per buono quello che so che il professor Gaudio, che il rettore Gaudio abbia fatto. Poi di tutto quello di cui ognuno di noi debba rispondere ad altre autorità, quello è un altro discorso. Il tandem Gaudio Strada la convince? Io sono molto convinto che il rettore Gaudio saprà prendere in mano la situazione della sanità in Calabria e che riuscirà a portare a termine questo commissariamento in maniera definitiva e che ai calabresi venga restituito finalmente l'amministrazione della propria sanità. Su questo non c'è dubbio. Ma il tandem con Strada? Un'idea. E ripeto che secondo me il commissario Gaudio saprà lavorare in maniera tale che con l'equipe che gli sarà messa o che sceglierà. Sì. O che gli sarà messa a disposizione, saprà fare quello che io personalmente, da presidente della regione facente funzione, mi interfaccerò con il commissario ad acta, chiaramente. Ok, perfetto, quindi con Strada nessun rapporto. Lei aveva sottoposto dei nomi a Speranza? Avevo proposto un nominativo al presidente Conte. Però ripeto, la cosa che mi ha soddisfatto intanto è stato questa apertura da parte del governo, quantomeno nello scegliere una persona, un calabrese, perché finalmente avevamo anche necessità di garantire alla gente di Calabria una apertura nei nostri confronti. Ma questo nome chi è? Spirli, questo nome che gli aveva proposto, chi è? Questo rimane chiaramente nel giusto rispetto istituzionale tra il presidente del facente funzione della regione e il presidente del consiglio. Però quello che voglio dire è importante questo, intanto cominciare a rompere questa bruttissima convinzione che calabrese uguale delinquente, calabrese uguale dranghetista. Mo basta veramente. Così dice, cioè, secondo lei l'idea era questa, cioè vi volevano mandare Zuccatelli e Strada perché pensavano che foste tutti mafiosi. No, ma c'è questa storia molto brutta che ogni volta bisogna bypassare i calabresi perché i calabresi sono brutti, sporchi, cattivi e ndranghetisti. Insomma, ci sono 2 milioni di calabresi che vivono in Calabria e altrettanti in giro per il mondo, se non di più, grazie a Dio. La mala razza, che peraltro è presente in tutte le etnie del mondo, è una sparuta minoranza che peraltro i calabresi onesti e puliti rigettano completamente. Spirli, altrimenti sono pregiudizi poi, poi è pregiudizio, sì. Altrimenti poi partiamo cadiamo nel razzismo, eccetera, eccetera. Però Spirli, mi scusi, lei è della Lega, il commissario della Lega in Calabria è Bergamasco. Io credo che il lavoro che ha fatto e che sta facendo l'onorevole Invernizzi, e che peraltro equivale al lavoro che tutti i commissari in tutte le regioni dove la Lega diventa nuovo partito, sia un lavoro eccellente, nel senso che è un partito che ha una connotazione precisa, che ha delle caratteristiche precise, per cui, come dire, inviare degli esplicatori del partito in giro per i territori non lo trovo assolutamente. Quindi è un esplicatore di partito. No, certo, ci dicono come funziona un partito. Mi fa molto piacere. Io peraltro lavoro fianco a fianco con Christian e lo trovo in molte cose più calabrese di tanti calabresi. Sarà lei, tra l'altro, il candidato del centrodestra alle elezioni? Io no, caro. Non si candida. Io tornerò a scrivere. La mia penna maledetta non aspetta altro che di essere impugnata e di tornare finalmente a scrivere senza laccioli che la politica impone. La politica, insomma, il ruolo istituzionale in questo momento devo essere rispettoso perché quello è ed è giusto che sia così, però la mano freme. Ma a questo punto, mi scusi, voi un piano pandemico non ce lo avete, mi sembra di aver capito. Questa è una domanda che non devi fare a me, questa è una domanda che devi fare ai commissari ad acta che si sono succeduti nei mesi scorsi in Calabria, perché purtroppo, ripeto, l'ho detto spesso in questi giorni, però è bene ripeterlo, la sanità della Calabria non è gestita dalla Regione Calabria, ma dal commissario ad acta, perché la sanità è totalmente commissariata. Peraltro la Regione è stata tenuta lontana, fuori, da ogni atto istituzionale e questo ha fatto sì che noi non potessimo conoscere quello che abbiamo conosciuto attraverso i media, cioè che non esiste un piano Covid per la Regione Calabria. Questo è veramente uno dei danni più grandi e devo dire che nonostante tutto questo, nonostante le difficoltà che la sanità sta incontrando in tutte le regioni, non solo in Calabria, grazie a Dio i nostri numeri sono ancora fortunatamente e spero a lungo e per sempre bassi. Se ho capito bene, se arriva Strada, lei nemmeno ci parla con Strada. Ma io parlo con tutti quanti, però il riconoscere un ruolo istituzionale è una situazione un po' più complicata. Incontrerò chiunque e speriamo di io dico sempre che se ai calabresi farà bene che io incontri chiunque tranne che il demonio, lo farò. Peraltro è escluso solo quello. Solo il demonio. Grazie Nino Spirlì, presidente della Regione Calabria, facente funzioni. Pietro Lacorte in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca e poi i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Ci risentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao. Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it vi ha presentato Mattino.